Secondo la rilevazione di non ricordo più quale quotidiano cittadino, un nucleo familiare milanese su 140 ha esposto alle finestre della propria abitazione la bandiera della pace. La percentuale non sarà forse esaltante, ma non è neanche da buttar via. Ed è poco ma sicuro che la nostra città, punteggiata da tutti quei drappi multicolori col loro accorato messaggio, ha un aspetto molto più amabile di quanto non abbia di solito. L'iniziativa, per la quale si sono spesi molti qui a Radio Popolare e altrove, a cominciare dal nostro amico Cristiano, dimostra come con un po' di inventiva sia possibile organizzare un'efficace campagna d'opinione anche senza disporre di mezzi esorbitanti. Tanto è vero che persino io, che per quel vessillo non avevo una grandissima simpatia, considerandolo sicuramente a torto tipico di un pacifismo piuttosto arioso dalle strutture vagamente parrocchiali, ho finito col cambiare idea e colgo l'occasione per unire il mio invito a quello di chi esorta da tempo chiunque disponga almeno di una finestra su strada e non l'abbia ancora fatto a provvedere una buona volta. In ogni caso, tra le molte bandiere di pace che sventolano il sole incerto di questi giorni di fine inverno, ce n'è una che mi incuriosisce particolarmente. È visibile a una finestra del primo piano di un edificio di fronte al quale mi capita di passare spesso, a Porta Romana, e più o meno all'angolo tra piazzale Medaglie d'Oro e via Crema, e subito sopra le vetrine di un grosso fast food, e ha l'evidente caratteristica di essere stata prodotta in casa con metodi artigianali. Chi ha deciso di esporla, si tratta di un singolo, di una coppia, di un gruppo d'amici, potrebbe anche essere un nucleo familiare con dei bambini o qualcosa del genere, e chi ha deciso di esporla si deve essere detto che sarebbe stato simpatico disegnarsi da sé la propria bandiera e si è messo al lavoro con carta e colori, e visto che c'era ha pensato che poteva valere la pena di variarne il modello. Ha mantenuto gli stessi colori naturalmente, ma rifiutando le strisce vi ha disposto in una specie di scacchiera. E la scritta pace, per la scritta pace ha preferito evitare il bianco tradizionale colorandola di un vivace blu cobalto. L'effetto è piacevole, il senso generale del messaggio non si perde, e tra le tante bandiere che si possono vedere a Milano, questa è comunque una delle poche che riescono a farsi per qualche verso ricordare. Ma oltre al messaggio generale, quel manufatto ne esprime evidentemente uno specifico. Il passante un po' attento alla sfera dei simboli non può fare a meno di chiedersi che significato possa avere esporre la bandiera della pace diversa da tutte le altre. E la domanda non si esaurisce in sé, comporta ed esige un giudizio, positivo o negativo che sia, perché da un lato si può apprezzare la ricerca dell'originalità al rifiuto del conformismo, e dall'altro si può deprecare la tendenza di distinguersi a tutti i costi dai propri confratelli. Il che idea simpatica ha avuto, insomma, può sfumarsi nel ma chi crede di essere quello. L'approvazione più o meno convinta è sempre a un passo da una qualsiasi forma di rifiuto stizzoso. E in mancanza di informazioni precise su chi veramente ci sia dietro quella bandiera, sulle motivazioni e gli argomenti che l'hanno spinto a fare quella scelta, i due punti di vista sono destinati inesorabilmente a convivere, perché entrambi i ragionamenti a modo loro sono validi e non esiste un vero e proprio motivo, salvo forse che nella testa di chi si pone il problema, perché l'uno prevalga sull'altro. Insomma, non si può negare che il messaggio esibito da quella finestra contenga, per caso o per intenzione, non importa, una bella dose d'ambiguità. Niente di male, ovviamente, visto che i valori non stanno mai nelle cose, ma ce li mettiamo sempre noi. Così mi confesserò che a me personalmente quella sfumatura enigmatica, quel poco tanto di incertezza nel giudizio che comporta, a pensarci bene non spiace affatto. Mi sembra che caratterizzi bene un momento in cui una certa ambiguità ci tocca, in cui a una certa ambiguità dobbiamo rassegnarci tutti, perché i pacifismi possibili sono tanti, vanno dal solidarismo cristiano all'antimilitarismo radicale, sfere tra le quali di distanza ne corre parecchia, e qualcuno può anche non apprezzare al 100% questa strana mescolanza di boy scout e disobbedienti, di anarchici e figli di Maria, di brutaloni dei centri sociali e di paolotti di sagrestia, ma ma se uno riesce a non lasciarsi sfuggire il senso dei propri valori, che poi vuol dire se uno resta ben attaccato alla propria identità, poi può mescolarsi con chiunque. Sulle sfumature, naturalmente, c'è sempre tempo per discutere.